A Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, per noi è la vigilia dell'Italia-Croazia, per l'europeo è il giorno di Olanda-Germania, ma anche di Portogallo-Danimarca, visto che la rassegna rischia di perdere sin da stasera gente come Cristiano Ronaldo, come Van Persie, Snyder, Robben. Ed è un europeo sempre assai seguito da un punto di vista televisivo, anche ieri la RAI ha fatto registrare ottimi ascolti, c'erano 3 milioni e mezzo di persone a vedere Grecia Repubblica Ceca, che insomma che non era esattamente un match clou. La sera per Polonia Russia c'erano oltre 6 milioni di telespettatori, che sono davvero tanti e sono destinati a crescere stasera, visto che la prima serata prospetta per l'appunto Germania-Olanda. Purtroppo non è stata a Varsavia la festa che si sperava, è andata invece come si temeva. Perché? Perché era oltre che la rivalità secolare tra questi due paesi, insomma, c'erano già avvisaglie di incidenti primi, il bilancio è molto pesante, sono 184 arresti, il bilancio appena stilato dal ministro dello sport polacco, 184 arresti, una ventina di feriti, e di questi arrestati 157 sono polacchi, 24 russi, ma ci sono anche uno spagnolo, un ungherese e un algerino, e quindi evidentemente il filtro, nonostante l'opera di prevenzione che è stata fatta, il filtro non ha funzionato. Da un punto di vista più tecnico si è arrivati a 25 gol dall'avvio degli europei, ieri c'è stato il 9° gol di testa, quindi la percentuale si stempera un po' rispetto a quello che avevamo detto ieri. Il gol di Iracek è soltanto il secondo sui 25 segnati fino ad ora da fuori area, l'altro è quello del francese Nasri, e quindi si gioca molto di testa, si segna molto di testa, ma si tira molto poco da fuori, e questa è una controtendenza, direi, rispetto a edizioni più recenti. Poi è vero che il gol forse più bello è arrivato a cavallo del limite dell'area, che è quello di Błaszczykowski, detto Cuba per gli amici, che ha dato ieri sera poi il pareggio ai polacchi, un magnifico sinistro dal limite dell'area, ma il pallone era per l'appunto sulla linea dell'area, quindi non si può calcolare come tiro da fuori. È stato invece battuto un record della storia degli europei, che è quello dei due gol più veloci, della doppietta più veloce mai registrata. Nei primi 6 minuti la Repubblica Ceca ha segnato quei due gol che hanno praticamente sin da quel momento annullato la Grecia, nonostante il tentativo di Cech e poi del portiere cecoslovacco di rimettere in corsa gli avversari con quella papera abbastanza incredibile. Cosa è successo sul fronte italiano? Beh, molte cosine, molte amenità, si danno il turno, no? Gli intellettuali, perché Buffon ha parlato prima degli europei e poi insomma a cavallo, ieri è toccato a Cassano, presto verrà il turno di Balotelli, quindi mi pare che da questo punto di vista ci si distingua. Una serie di domande le pone Andrea Ruggeri, che scrive da Milano e che fa queste osservazioni che io trasformerei nell'editoriale di giornata. Allora, su Cassano scrive: in pochi mesi è stato miracolato dalla sorte e poi ha visitato Auschwitz. Se neppure questi due eventi hanno cambiato la sua visione dell'esistenza in termini di serietà e tolleranza, possiamo ancora parlare di infanzia difficile, ignoranza e sottocultura, oppure siamo all'incapacità di intendere e volere? Prima domanda. Seconda domanda, sempre di questo ascoltatore milanese Andrea Ruggeri, sull'addetto stampa della Nazionale, che ruolo ha effettivamente? Non deve intervenire se una domanda idiota viene rivolta a un ignorante con un'infanzia difficile, probabilmente privo di capacità di intendere e volere? Sul giornalista, infine, la domanda, per carità, è lecita, ma questo che giornalismo è, secondo lei? Io le chiederei di farmi grazia di queste risposte, visto che sono già praticamente incorporate nelle domande. Cassano ha parlato anche d'altro, per esempio ha parlato della vigilia della Croazia, che ormai è quello che ci interessa. Sentiamo questo frammento. Speriamo che dei tre qualsiasi calciatore possa far bene, uno alto, uno basso, non lo so, l'importante è far risultati e fare una grande prestazione contro la Croazia per poter avere ancora più fiducia per il futuro. Il punto di forza è sicuramente Modric, per me è il giocatore più forte della Croazia, un grande giocatore. E di Croazia ha parlato anche Maggio, che pare avviato verso la conferma nel suo ruolo. Qualcuno ieri c'era qualche ipotesi di un'alternanza con Abate da quella parte, così come di un'alternanza tra Giacherini e Balzaretti sulla sinistra, ma sembra invece che si vada verso una conferma, anche se le idee più chiare le avremo nel pomeriggio più avanzato, quando Prandelli avrà, se non dato la formazione, che allora sì, certo è facile, insomma, perlomeno fornito qualche orientamento in più, e sarà stato magari possibile, da parte di alcuni degli inviati, seguire almeno la prima parte dell'allenamento. Sulla Croazia, Maggio. Ma è completamente diversa, soprattutto come gioco. La Spagna sapevamo che giocava molto di prima e avevano dei buoni inserimenti, e quindi l'avevamo preparata appunto anche per questo. In questi pochissimi giorni, anche in queste pochissime ore, stiamo preparando la Croazia, soprattutto a livello fisico sono un po' superiori, e anche lì hanno, soprattutto davanti, hanno dei giocatori in grado comunque di mettere in difficoltà. Sembra un'analisi interessante quella di Maggio, al punto che vedrei di proseguirla, sentendo che cosa pensa del modulo. Per quanto mi riguarda è un modulo che a me piace molto, come ben detto anche te, nel club l'ho sempre fatto, da 4 anni che lo faccio e mi trovo bene. Ho visto anche comunque qualche altro compagno nel loro club, insomma, questo modulo lo fa molto spesso, e ho visto anche in partita con la Spagna appunto che si sono trovati bene nei movimenti, non hanno avuto grossissimi problemi, e quindi penso che, a parte me, insomma, anche qualche compagno, questo modulo sia molto, molto positivo. Indubbiamente l'Italia è tonificata, insomma, è cresciuta in autostima dopo il pareggio con la Spagna, questo credo sia un dato innegabile. È vero che adesso la Croazia è tutt'altro avversario, è vero che l'autostima in casa nostra non sempre è il propellente ideale per affrontare avversari teoricamente inferiori o comunque al massimo della stessa forza, quindi non superiore in partenza, però è un dato positivo. Questa partita di Italia-Spagna, questo test così, così difficile iniziale, visto dagli occhi di Giovanni Trapattoni. Beh, devo dire molto bene, squadra sicura, equilibrata. Devo dire che ha avuto questa grande opportunità con Balotelli, forse ha ritardato a pensare un momento e è stato recuperato. Devo dire che la squadra molto ben organizzata, una squadra che ha, del resto il campionato italiano lo sappiamo, un campionato che dà fiducia, dà confidenza, giocano tutti, e quindi può sicuramente aspirare a battere anche questa Croazia. Come sempre 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta, cominciate a prenotarvi, anche se adesso nella prossima parte ci sarà invece un'ampia parentesi dedicata ad un altro argomento, che è il Paris Saint Germain e il fair play finanziario. Torniamo in onda con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, bentornato. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Senti, che fine sta facendo questo fair play? È una domanda che si pongono in tanti, che continuano a ripetere per iscritto, lo fanno i loro interventi, ma insomma lo leggiamo e lo sentiamo ormai da qualsiasi parte, perché i 30 milioni per Lavezzi, i 42 più bonus, sembra che sia l'ultimo prezzo di Thiago Silva, stanno insomma un pochino lasciando il segno. Beh, sono esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere il fair play finanziario. La gestione che in questa fase la proprietà dell'Emiro Altani del Qatar sta facendo a Parigi è in contraddizione sotto tutti i punti di vista con quello, certo, che sinceramente la UEFA ha detto in questi mesi e vuole attuare, perché io non credo che la UEFA voglia tornare indietro su questo progetto. Però a me piace, come sai, muovermi sul terreno dei numeri che danno l'idea di quello che è accaduto, sta accadendo dalle parti di Parigi. Allora, il Paris Saint-Germain negli ultimi tre anni, anzi facciamo così, nell'ultimo anno il Paris Saint-Germain ha speso 100 milioni di euro nella campagna acquisti tra saldo di entrate e uscite. Sì. Nei due anni precedenti aveva speso 11 milioni, quindi è arrivato è arrivata questa nuova proprietà, hanno speso 100 milioni l'anno scorso, quest'anno siamo già più o meno su quelle cifre tra costo dei cartellini e ingaggi. E certo, operazioni. Il rapporto dovrebbe essere, ci hanno detto, tra quello che tu incassi e quello che tu spendi. Ora, quanto incassa il Paris Saint-Germain? Il Paris Saint-Germain incassa ogni anno tra 70 e 80 milioni di euro. Io il dato preciso non te lo so dire perché sto recuperando il bilancio. Stai indagando. Il bilancio, perché voglio vederci chiaro. Però sappiamo questo, che il Paris Saint-Germain non compare nell'ultima classifica Deloitte dei 20 club con il fatturato maggiore, e il ventesimo il Napoli con 114 milioni, quindi sicuramente fattura meno del Napoli, fatturava fino al 2011. In cassa di diritti TV, questo dato sono riuscito a ricostruirlo, intorno ai 40-45 milioni all'anno, sì. Quindi considerando le altre voci di entrata in rapporto ai diritti TV, diciamo che stiamo sugli 70-80, massimo 90 milioni di euro all'anno. Ora, una squadra che incassa 90 milioni di euro all'anno ne ha spesi 100 l'anno scorso e si appresta a spenderne altri 100. Evidentemente qualcosa non funziona se le regole del fair play finanziario ci dicono che proprio a partire dalle operazioni di quest'anno in maniera ufficiale, ma si terrà conto anche di quanto è stato fatto nell'anno immediatamente precedente, è possibile, come dire, spendere, andare in rosso per un massimo di 45 milioni, che saranno considerati, ripeto, in maniera ufficiale nel prossimo biennio, cioè quest'anno e il prossimo, ma si terrà conto anche di quello che tu hai fatto negli anni immediatamente sì. successivi. È chiaro che a partire poi dal 2013-14 la UEFA farà due conti e verificherà che se la spesa ha, diciamo, è andata in maniera plateale oltre quel limite di 45 milioni, che poi scenderà a 30, dovrà chiamare i proprietari del Paris Saint-Germain, e vorrei vederlo poi Platini chiamare i vertici di una squadra di Parigi e spiegargli che insomma non si faceva proprio così, a meno che il Paris Saint-Germain non abbia un progetto industriale talmente forte e vincente, di cui per il momento non è dato sapere, che permetterà di incassare appunto il doppio, di raddoppiare se non triplicare il fatturato nei prossimi 2-3 anni. Certo, l'anno prossimo c'è la Champions League, ci saranno ulteriori ricavi, ma non tali da giustificare queste spese. Quindi, per rispondere in definitiva alla tua domanda, il Paris Saint-Germain in questo momento è fuori dai parametri. Sta violando le regole del fair play finanziario. Certo. Vedremo come si comporterà la UEFA. Allora, da una parte c'è un fair play finanziario violato, dall'altro c'è un calcio italiano che non può che dire grazie a Paris Saint-Germain. Ti leggo questo elenco. Thiago Silva 40 o 42 milioni eccetera più bonus quest'anno, e Lavezzi 30 milioni quest'anno. La campagna acquisti precedente 42 milioni per Pastore, 8 per Menessa alla Roma, Sirigu 4 milioni a Palermo, Sissoko 7 milioni alla Juve, Thiago Motta 12 milioni all'Inter. Fa un totale di 143 milioni che sono arrivati in Italia, sono arrivati alle società italiane. Quindi, paradossalmente, sarebbe giusto che intervenisse l'UEFA, gli italiani, però i club italiani mi pare che possano dire grazie. In un'ottica di brevissimo periodo, sì, perché vuol dire che il Paris Saint-Germain sta finanziando il calciomercato in Italia. Se però andiamo a uno scenario un po' più ampio di questo, e ragioniamo su quello che gli stessi francesi ci hanno accusato di perdere, cioè di perdere tutti i campioni, il discorso diventa un po' più complicato e meno roseo, nel senso che la Serie A italiana, di fatto top player, come si dice, e so che a te non piace che si usi questa espressione, sì, no, ma io ormai per consuetudine, certo. Senza top player è difficile vendere all'estero il prodotto calcio italiano. Non a caso l'Italia incassa sui diritti TV appena 100 milioni, cioè il 10% della sì. torta del miliardo, contro per esempio 500-600 milioni che incassa la Premier League, circa 300 che incassa la Liga Spagnola. Quindi evidentemente, essendo quella l'unica voce di entrata, una delle poche che nell'immediato si poteva far crescere, perché quelli nazionali sono bloccati e sono venduti ogni 3 anni e di fatto non credo che aumenteranno, sì, l'unica sì. voce che potevi sperare di far aumentare era quella dei diritti TV venduti all'estero. Se non hai più campioni, se le squadre che sono costrette a cedere i giocatori di maggior fama, è chiaro che quel prodotto riuscirai a venderlo molto più difficilmente. E credo che anche poi iniziative come la Supercoppa Italiana, giocata a Pechino tra Napoli e Juventus l'11 agosto, su cui si è tanto discusso, le due società hanno tanto litigato, finisce per essere semplicemente uno spot che poi non produce un ritorno così come invece si sperava, e come per esempio hanno ottenuto le squadre inglesi giocando lì diverse partite, facendo delle tournée, ma andandoci con i campioni. Sono quelli, inutile star dietro a tante chiacchiere, poi sono i campioni che fanno la pil della squadra e i soldi che la squadra può incassare. E fanno gli incassi, fanno. Così è sempre stato, negli anni 50 o 60, quando arrivavano le squadre brasiliane in tournée in Italia, c'era i contratti prevedevano ampie penali o comunque sensibili differenze di guadagno per il Santos e per il Palmeiras, se giocavano o giocava Pelé. Se giocavano non giocava Garrincha, perché questi andavi a vedere, non andavi certamente a vedere un terzino magari anche promettente. Questo era il primo capitolo di questa parentesi odierna, visto che poi vorremmo tornare a dare spazio agli europei. La seconda riguarda Barcellona-Real Madrid, perché? Ma così, a grandi linee, perché il salvataggio delle banche, anche qui molti sono intervenuti, molti si stanno a mandare, dice, ma sto salvataggio delle banche spagnole, visto che sono state le banche spagnole a finanziare, a coprire i debiti di Real Madrid e Barcellona, non è che adesso noi cittadini europei abbiamo il piacere di mantenere Real Madrid e Barcellona? Beh, anche su questo io, Gigi, ho letto e ascoltato tante cose in questi giorni e ci terrei a provare a fare un po' di chiarezza, anche partendo dai numeri, perché si è un po' esagerato. Insomma, poi in Italia succede così, che c'è un articolo, tutti gli altri vanno a ruota e magari pochi si domandano qual è l'effettiva e reale situazione dei bilanci di certe squadre piuttosto che di altre. Allora, se parliamo del sistema calcio spagnolo nel suo insieme, il ragionamento, l'equazione è crisi del sistema bancario, crisi delle squadre di calcio sostenute dal sistema bancario e quindi finanziamenti dell'Unione Europea che vanno di fatto poi a sostenere indirettamente attraverso le banche e le società di calcio, e quindi, come qualcuno forse ci ha scritto, l'operaio della Renania che paga lo stipendio a Ronaldo, insomma ci può stare, ma è molto grossolano. Ecco. Sì. Tornando invece a quella che è la realtà effettiva del calcio spagnolo, che significa Real e Barcellona, il ragionamento su una crisi immediata, su un depotenziamento di queste due squadre dovuta alla crisi spagnola e quindi alla chiusura dei rubinetti da parte delle banche, è vero fino a un certo punto, perché queste due squadre hanno un rapporto, hanno avuto sì un rapporto privilegiato con le banche, ma non hanno bisogno delle banche per mantenere l'attuale status. Barcellona e Real Madrid fatturano oltre 450 milioni, incassano oltre 180 milioni dai diritti TV, oltre 150 milioni dagli sponsor, soprattutto oltre 110 e 120 milioni dalla biglietteria, quindi hanno quindi un flusso di cassa tale che non hanno bisogno di ricorrere all'ossigeno delle banche, quindi possono tranquillamente pagare gli stipendi, l'autostipendi che pagano. E consideriamo che in quel famoso rapporto tra stipendi e fatturato, che ormai è diventato di moda, il Real Madrid paga salari al 2011 per circa 215 milioni di euro, che significa circa il 45% del fatturato. Il Barcellona paga 240 milioni di stipendi su 450 di fatturato, quindi siamo intorno al 53%. Sono livelli ottimali virtuosi, e ideali, certo, rispetto ad altre realtà. Soprattutto italiane. Anche italiane, dove questo rapporto schizza all'80, al 90%. Quindi, in definitiva, Barcellona e Real Madrid possono tranquillamente andare avanti. Sicuramente la crisi bancaria influirà sul sistema calcio spagnolo, perché il sistema calcio spagnolo è organizzato, l'abbiamo detto tante volte, in maniera individuale, cioè a partire dai diritti TV Barcellona e Real acquistano e vendono direttamente dalle TV questo servizio e di conseguenza incassano circa i due terzi di quanto incassa l'intero sistema. Questo ha comportato per esempio che 6 o 7 squadre sono in amministrazione controllata e viaggiano verso il fallimento a partire dal Valencia. Per cui quello è un modello sicuramente che noi non abbiamo indicato come modello virtuoso, a differenza per esempio di quello tedesco. Che, ripeto, Barcellona e Real Madrid domani mattina saranno costretti a vendere i propri gioielli per sopravvivere, questo ti sembra un pochino più esagerato. Proviamo a sentire Vincenzo della provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno, ringrazio per l'opportunità e per la simpatia con cui conducete questa trasmissione. Io leggendo le critiche sulla partita nazionale di qualche giorno fa, non ho trovato nessuno che parlasse di De Rossi per quello che ha fatto come libero di un tempo, come giocava il libero di un tempo. Vorrei sapere la sua opinione su questo. E poi, poi concludo, se non le sembra che la cautela con cui viene trattata l'eventuale sostituzione di Balotelli non rappresenti un eccesso. Mi sembra che il ragazzo abbia una scorza abbastanza spessa e l'ha dimostrato ampiamente, non? Per cui eventualmente una sua sostituzione con qualcuno più in forma e che ha dimostrato di essere più in forma non penso che lo debba fare precipitare in un pozzo di disperazione, perlomeno mi sembra poco probabile. La ringrazio. Grazie e lei, ascolto. Grazie a lei Vincenzo. Sì, dunque il libero giocava staccato dietro, De Rossi gioca in linea con gli altri difensori e spesso semmai il libero lo fa davanti, quindi direi che da questo punto di vista c'era suggestione ma non analogie autentiche. Balotelli è un'opportunità, cioè se 30 anni fa Bearzot avesse valutato, cioè 30 anni fa le prime tre partite di Paolo Rossi furono prestazioni leggermente inferiori, uso un eufemismo, a quella di Balotelli nella partita d'esordio. E quindi veda un po' lei sul fatto di insistere o non insistere, sul fatto di infierire o non infierire. In realtà il calcio ha ancora i suoi anticorpi, scrive Marco da Massa Carrara. La stagione scorsa questo antidoto è stato in Montpellier. È vero Marco Bellinazzo in questo caso? Speriamo che ci sia un altro Montpellier anche l'anno prossimo. In giro, anche se nei campionati maggiori è un pochino più difficile. Maggiori, non che la Francia sia un campionato di secondo piano, ma insomma. Purtroppo per esempio l'Inghilterra ha dato un esempio negativo, visto che ha vinto il City, che è proprio un esempio virtuoso economicamente non è. Che è il secondo dei capitoli che volevamo affrontare oggi, no? Perché il Paris Saint-Germain è più diciamo sull'attualità, ma non è che gli altri sceicchi là. Cioè, prima abbiamo parlato di Altani e del Qatar che controllano il Paris Saint-Germain, ora ci spostiamo ad Abu Dhabi, così bacchettiamo anche lo Sheikh Mansour, così dopo gli Emirati Arabi, il Qatar, insomma, ci dichiareranno guerra. No? Altre cose a cui pensare. No, però il City, ecco, ha speso gli ultimi tre anni 324 milioni, sempre nel saldo tra entrate e uscite della campagna acquisti. Ha portato in alto il suo fatturato, che però si ferma a 170 milioni. Questo significa che nel rapporto, per esempio, tra salari e fatturato, siamo al 114%. Quindi contro il 53% del Barcellona e il 45% del Real, il City paga circa 200 milioni di stipendi a un fatturato di 170, che derivano grosso modo dai diritti TV per 70 milioni, dagli sponsor per 64, che poi sono gli stessi diciamo proprietari che attraverso vari giri sponsorizzano la squadra e quindi fanno arrivare nuovo capitale. Anche questo altro elemento che segnaliamo alla UEFA, chi di dovere, e determinano questa sorta di droga del mercato. Tu certo. Prima ricordavi come gli acquisti in Italia del Paris Saint Germain hanno in qualche modo permesso poi alle società italiane, che non hanno più finanziamenti facili, di poter fare campagne acquisti, però quello che fa il Paris Saint Germain, quello che fa il City sono evidentemente esempi poco virtuosi e finiscono per drogare il mercato, certo, e per spostare risorse. Il problema è che quando questi sceicchi si stancheranno e andranno via da Parigi e dal City, ritroveremo società indebitate, società che quindi non possono più affrontare quelle spese perché non hanno il fatturato capace di sostenerle, e vedremo se si realizzerà quello che Platini ha detto, cioè in questi casi, quindi bocciature preventive per evitare questo esito, oppure quello che lui voleva evitare si realizzerà e sarà il fallimento della sua politica. Per questo io credo che la UEFA e Platini cercheranno in qualche modo, anche se a livello magari di moral suasion, di intervenire preventivamente per evitare questo esito. Sarebbe nefasto per tutto il calcio europeo. Certamente. Grazie allora Marco Bellinazzo. Grazie a te Gigi, a presto. Chiudiamo questo capitolo finanziario e torniamo a quello europeo con l'intervento di Carlo che ha chiamato da Cosenza. Buongiorno. Buongiorno, la ringrazio intanto per avermi fatto intervenire. Volevo intervenire su Prandelli, ho notato che alla vigilia di Italia-Spagna lui ha tranquillizzato tutti dicendo che la notte aveva dormito, che aveva fatto bene i compiti, eccetera, eccetera. Invece questa vigilia di Italia-Croazia, lui dice: ma ho tanti dubbi, è una partita difficile, per cui anche a noi tifosi ci ha messo comunque in uno stato d'animo che è diverso rispetto alla partita con la Francia, con la Spagna. Non so se anche lei ha avuto la stessa sensazione. Ero rimasto al Principe di Condé e alla vigilia della battaglia di Rocroi, se proprio vogliamo stare su vigilie storiche. E poi i nostri dormono più o meno bene, mi lascia un pochino più freddo, Carlo. Anche perché ricordo le vigilie azzurre dell'82, che poi scoprimo dopo noi, ovviamente, parlando poi con calma nel tempo con i protagonisti, ma insomma tra Conti, Tardelli, Oriali e altri erano in pochi quelli che dormivano davvero in quelle notti, tra l'altro caldissime, soprattutto quelle sulle alture di Barcellona. È curioso notare che ieri la Repubblica Ceca, i due gol della Repubblica Ceca sono made in Wolfsburg, perché sia Iracek che Pilar sono giocatori già acquistati dal Wolfsburg, mentre invece la Polonia continua imperterrita ad andare avanti con griffata Borussia Dortmund, perché anche il gol di Błaszczykowski, come quello di Lewandowski nella partita precedente, sono prodezze, e sono state prodezze vere, tra l'altro tutte e due, anche da un punto di vista estetico, sono comunque firmati da giocatori del Borussia Dortmund. Alessandro ha chiamato da Mantova, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, grazie per avermi fatto intervenire. Dunque, Thiago Silva 42 milioni di euro, d'accordo, niente da eccepire sulla qualità del giocatore. Barzagli, Bonucci, quanto gli abbiamo dato quest'anno prendendo 19 gol in meno di quelli che ha incassato il Milan? Volevo chiedere la sua opinione a riguardo, grazie mille. La mia opinione è che Barzagli sia un buon giocatore, anche a livello internazionale, Bonucci meno, Thiago Silva è un leader difensivo, poi fare i rapporti di valutazione sinceramente non spetta a me. Io credo che in ambito europeo, se si vuole provare a competere in ambito europeo, un giocatore come Thiago Silva sia un giocatore chiave. Può darsi che i due della Juventus invece non lo siano, e può darsi invece che si dimostrino tali. Salerno, Giuseppe, buongiorno. Salve dottor Garanzini. Volevo ritornare sulla considerazione che ha fatto il primo radioascoltatore in merito al ruolo di De Rossi. Sì. Perché stamattina sulla Gazzetta ho letto che De Rossi ringrazia Luis Enrique per averlo, come dire, reinventato in quel ruolo. Io ho pensato un po' al calcio degli anni passati, ricordo l'Idolm che ha reinventato di Bartolomei nel ruolo di libero, certo. Lo stesso Desailly con Capello è passato da mediano a difensore centrale, da difensore centrale a mediano a seconda delle necessità, ed anche per risalire alla notte dei tempi, ho letto che l'allenatore del Cagliari dello scudetto degli anni 70 reinventò un certo Cera da mediano a libero, quindi in effetti di fatto nel calcio non si inventa nulla, bene o male, si cerca sempre di fare di necessità virtù. La Roma aveva buchi difensivi paurosi, il calciatore più veloce che poteva essere impiegato in quel ruolo era De Rossi per limitare i danni dei contropiedi devastanti subiti dalla Roma, ed oggi Prandelli si ritrova questo calciatore in un ruolo abbastanza tagliato alle sue caratteristiche. Tutto giusto. Non fosse altro per la sua velocità di gioco. Concludo dicendo che di fatto nel calcio non ci sono scienziati che inventano, in effetti quello che viene fatto oggi veniva fatto anche in passato, si cercava di certo, certo, in base certo Giuseppe, ma è così, lei, ha, no. Lei ha, c'era per esempio, si, c'era fu un'ispirazione di Scopigno a Cagliari sul modello Beckenbauer, sul modello tedesco di anzi forse addirittura precedette, perché adesso lì bisogna stare attenti agli anacronismi, io credo che addirittura c'era venne prima, perché Beckenbauer quando c'era era già il libero per esempio dell'Italia messicana del 70, Beckenbauer era ancora un centrocampista, quindi forse la sua evoluzione, il suo arretramento poi da libero, ma da libero, da grande libero l'impostazione avvenne dopo, e semmai fu Scirea che si ispirò a Beckenbauer, era un giocatore molto in voga allora, era una figura chiave di una squadra di calcio allora, quella del libero che impostava, del libero che usciva e che all'occorrenza sapeva magari pure fare gol. Oggi giocando senza libero evidentemente questo tipo di figura non c'è più e al massimo salta fuori occasionalmente come in questo caso, ma salta fuori per una difesa 3 che è diversa da allora, perché allora il libero era uno dei due centrali, soltanto stava staccato all'indietro. L'Assad ha chiamato da Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, ho un gran piacere di ascoltarla. Cosa ne pensa di questa, nella storia della Coppa Europea mi sembra che solo 3 squadre che hanno vinto a casa loro l'Europea, l'Italia 68, la Francia 84 e un altro paese che non mi ricordo. E voglio sapere il suo parere per questa Polonia e Ucraina che sono ossiduri, se vengono aiutati un filino con gli arbitri pensa che possono andare avanti fino al fondo? Beh, ciò, intanto speriamo di no, perché non vedo perché i padroni di casa debbano essere aiutati dagli arbitri. Alla Polonia è già successo nella prima partita di essere aiutata dall'arbitro, non poco nemmeno. Io mi auguro proprio che non accada, e però no, sinceramente non credo che... per quel che ho visto nelle prime due partite della Polonia e nella prima dell'Ucraina non mi sembrano da vittoria finale. Anche Matteo sta arretrando la Libero, si è allungato la carriera, scrive Lori da Milano. Sì, e non con grande giovamento delle squadre in cui quella carriera si è allungata, perché Matteo se si tirava qualche anno prima credo fosse meglio per lui, per il ricordo che avrebbe lasciato e per la società in cui ha giocato in quelle ultime stagioni. Vi ho parlato all'inizio degli incidenti molto gravi in Polonia. C'è questa notizia che arriva da Genova che mi ha molto sconcertato. Hanno preso il ragazzo che sabato notte, genoano o presunto tale, perché lì parliamo di delinquenti e basta, indipendentemente dai colori sociali, che ha accoltellato un gruppo di tifosi sampdoriani che stavano festeggiando il ritorno in Serie A. Dunque lo hanno preso. Allora, le imputazioni sono le seguenti: tentato omicidio e lesioni gravissime, ma la sua posizione si potrebbe aggravare in maniera molto pesante nelle prossime ore. Qual è la cosa che mi ha, non dico sconvolto, ma insomma non fatto piacere, credo che non farà piacere a nessuno, che è stato salvato da un cavillo burocratico in base al quale anche pur avendo ammesso i reati, nell'immediatezza non è previsto l'arresto, visto che non sussiste pericolo di fuga. Dunque, attualmente è indagato a piede libero. Andiamo da Nicola Filippone e da un 13 giugno europeo nella sua libera interpretazione. Sembra ieri. 13 giugno 2004. La Francia, campione d'Europa in carica, debutta a Lisbona contro l'Inghilterra. Ed è una sfida che non sarà certo avara di emozioni. La formazione allenata da Eriksson passa al 38esimo con una deviazione vincente di Lampard su traversone di Beckham. L'ala del Real Madrid ha anche la possibilità di raddoppiare a meno di 20 minuti dal termine, ma Barthez vola a parargli un rigore peraltro ben angolato. La gara sembra comunque compromessa per la Francia, a cui però riesce una rimonta senza precedenti nel recupero tra il 91esimo e il 93esimo. Il protagonista è Zinedine Zidane, che prima trasforma una punizione con un colpo d'autore e poi realizza un rigore dopo che il portiere James aveva atterrato a rilanciato a rete. Il numero che Nicola Filippone segnala come numero di giornata è 10. 10 come le presenze alla fase finale degli europei della Germania, che è la nazionale con più partecipazioni a questa competizione. Raffaele ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Garanzini, la ringrazio per l'opportunità che mi date. Sì. Volevo dire la mia sul discorso del fair play finanziario. Sì. Credo che l'ideale sarebbe in qualche modo che appunto il presidente dell'UEFA Platini obbligasse tra virgolette tutti i presidenti all'inizio dell'anno a fare il proprio investimento e quello metterlo a bilancio come fatturato. Sì, sarebbe un'idea, certo. Io credo che tra il dire e il fare, credo che questa vicenda si stia un tantino complicando. Così come era lodevole l'intenzione iniziale, mi sembra complesso il percorso che si sta compiendo. Raffaele, grazie. Fabio, Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Volevo fare una considerazione sulla tenuta fisica della nostra nazionale, che ritengo che non sia messa proprio al meglio, tant'è vero che Prandelli dalle ultime dichiarazioni penso che ne sia consapevole, al contrario appunto della Croazia che invece, almeno come l'ho vista io, l'ho vista correre in maniera diversa, quindi per domani io ci andrei cauto perché penso che la partita sarà molto difficile e mi auguro che Prandelli faccia le scelte più opportune e che soprattutto la condizione fisica migliori. E appunto volevo sapere la sua opinione in proposito. E poi un'ultima cosa, speriamo che per quanto riguarda la prestazione di De Rossi, la figura del libero possa ritornare un'altra volta in auge. Io sono un po' vecchio, forse un po' di nostalgia, perché se non ricordo male il libero è stato un ruolo inventato proprio da noi italiani. La ringrazio e la saluto, l'ascolto per l'aria. Grazie Fabio, è stato forse perfezionato da noi italiani, in realtà inventarlo furono uno svizzero, ma anche insomma si discute in dottrina tra uno svizzero che applicò quello che loro chiamavano Verrù alla fine degli anni 40 o addirittura un ungherese, Banas, che allenava il Padova. E che il Padova in cui giocava Nereo Rocco, ma stiamo parlando dei primissimi anni di guerra, il 41 o il 42, che andò a giocare proprio a Trieste, schierando per la prima volta, pare in Italia, un centrocampista arretrato alle spalle dei difensori. Giuseppe, chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, dica. Signor Garanzini, buongiorno. Innanzitutto le faccio i complimenti per la sua moderazione e pacatezza. E il suo amore per il calcio. Ma la mia telefonata vuole essere una manifestazione di solidarietà al calciatore e uomo Cassano, perché in un momento particolare come questo per la nazionale, insomma, io penso che la nazionale avrebbe bisogno di tutta la massima tranquillità, sì, e non essere distolta dalla concentrazione con argomenti che non hanno nulla a che fare con il calcio, credo, no? Beh, vengo subito alla domanda, sperando di non trascinarla già così non è brevissima, Giuseppe. Arrivo subito. Guardi, penso che la domanda, insomma, vorrei sapere da lei se non pensa, fermo restando la libertà dei giornalisti, che la domanda rivolta a Cassano è stata riguardo le tendenze che riguardano la sfera privata di alcuni, non sia stata fuori luogo e indiscreta, o come direbbe qualche onorevole, che ci azzecca con il calcio. Trattandosi anche di Cassano, trattandosi anche di quell'interlocutore, è stato un po' come rubare in chiesa, a parer mio. Ma insomma, ci sono tanti modi di fare giornalismo, questo è uno ed è legittimo anche quello. Mi pare che sia oltretutto quello di tendenza oggi, quello che fa ricavare i maggiori successi, magari a breve termine, ma insomma oggi non si può dire che il trash non abbia i suoi cultori. E quindi anche questa domanda ci stava dalla parte del giornalista, questo non per difesa di categoria, tutt'altro, ma semplicemente perché domandare è lecito, rispondere è cortesia. Cassano è stato molto cortese, non è stata efficiente la federazione, che non si può permettere di mandare allo sbaraglio un personaggio come Cassano senza tutor, sic et simpliciter. Tancredi ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Vabbè, l'ha detto lei un secondo fa, cioè che non si può mandare Cassano a parlare davanti al mondo rappresentando l'Italia calcistica in quel momento con quella testa che c'ha, quel cervello molto piccolo e posizionato dietro l'orecchio. Non è un'offesa, però è la realtà di fatto. Punto e basta. Vabbè. Sì, e quindi? Sono stato quasi un po' drastico. Sì, ma però lo vediamo tutti. Affettuoso quello... no, affettuoso no. Però appunto... Insomma, magari senza essere così drastici e senza troppo voler infierire, io credo che una nazionale, un club, cioè comunque una dirigenza di una squadra di calcio, ma di una squadra anche di qualsiasi altra disciplina, debba preoccuparsi di tanti aspetti, no? di quello tecnico, di quello fisico, di quello sanitario, ma anche di quello della comunicazione. È sempre stato così, lo è oggi a maggior ragione in tempi in cui la comunicazione è determinante, preponderante. Ecco, lasciare che si presenti Cassano davanti a un microfono libero, senza il tutor, secondo me è da dilettanti allo sbaraglio, soprattutto in un momento in cui l'immagine dell'Italia è già così sotto pressione. Grazie a Giorgio De Luca, che ha curato oggi il lavoro in redazione, a Matteo Comes, che ha curato quello in regia, e appuntamento a domani. Montante, la bici italiana dal fascino inconfondibile, una vera e propria mania. Vi ha presentato A Tempo di Sport.